Italien. Vecchi cartoni, sì. Ah sì, anche di Grotte, questi di... Poi c'è quel saggio di Bernini, però quello... Sì, questo conosco, sì, sì. ...iniziare questa settimana, almeno la parte italiana, ma che per ragioni di organizzazione interna del nostro gruppo abbiamo spostato a oggi. Raniere è uno studioso che si muove a cavallo, in un certo senso, tra la storiografia pura, la storia del diritto e la storia delle relazioni tra Stato e Chiesa. Insegna storia del diritto canonico e storia delle relazioni tra Stato e Chiesa. Ha la cattedra a Urbino e un insegnamento a Genova, dove risiede stabilmente e si è formato. Appartiene quindi ad una tradizione importante nella storia delle nostre discipline, perché è la linea di quei ricercatori, studiosi, cultori delle discipline ecclesiasticistiche che hanno tradizionalmente in Italia dato anche dei notevoli storici. Penso il caso più noto e maestro di molti di noi, o di quasi tutti, almeno indirettamente coloro che si occupano di questioni politico-ecclesiastiche o di storia dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato, ad Arturo Carlo Jemolo, a uno dei suoi allievi, Margiotto Abroglio, che è stato, dopo la morte di Jemolo, un altro dei punti di riferimento, i quali hanno fornito elementi importanti agli storici puri, in quanto appunto il loro interesse, come quello di Barnier, si è concentrato sulla determinazione in termini storici di certi istituti o di certe figure giuridiche che sono largamente utilizzate poi nel lavoro storico e anche nel lessico come strumenti interpretativi. Barnier è stato anche collaboratore del dizionario storico del Movimento Cattolico, che ho avuto l'onore di dirigere insieme al professor Campanini. Ha fatto alcune voci, ha curato una serie di voci molto importanti per quanto riguarda in particolare il Movimento Cattolico Genovese. Si è occupato quindi di problemi relativi al mondo e alla tradizione cattolica dal punto di vista anche delle sue composizioni ideologiche e delle sue valenze di natura politico-istituzionale, e viceversa di settori, di momenti, di istituti rilevanti del diritto canonico e del diritto ecclesiastico. La sua relazione verte su aspetti della politica ecclesiastica della sinistra e ha appunto il senso di fornire ora alcuni riferimenti al quadro, diciamo, normativo prevalente che configura in Italia, in modo forse più netto che in altri periodi. Ricordo che in Italia il periodo della sinistra è quello che inizia con il primo governo De Pretis del 1876, che succede alla destra storica, che configura in Italia un periodo in cui per alcuni aspetti almeno il problema del conflitto o comunque della difficoltà delle relazioni tra istituzioni statali e istituzioni ecclesiastiche, con la componente della questione romana in aggiunta, e quindi la questione del papato, diventa più acuto. Gli do la parola pregandolo di restare, se possibile, nei termini di circa tre quarti d'ora, 50 minuti, in modo che possiamo poi avere ancora un po' di tempo per le domande e la discussione secondo il solito. Grazie. Cercherò di rispettare i tempi, anche perché il professor Verrucci mi ha preceduto nelle conclusioni, che per certi aspetti sono anche le mie, anche se procederò con un itinerario diverso e su qualche punto sarò anche un pochino in contrasto con quanto ha detto il relatore che mi ha preceduto. Ringrazio il professor Traniello per questa presentazione che va oltre i miei meriti e ringrazio soprattutto per l'ospitalità questa settimana di studio e più in generale un ringraziamento all'attenzione che gli storici riservano ai giuristi che si occupano di storia. Questo è un ringraziamento che si dovrebbe estendere a tutte le occasioni in cui ci invitano e tengano presenti i nostri interventi. Comincerò con una citazione un pochino lunga, ma poi non infliggerò altre. Vero è che in questo momento la lotta è giunta tra il governo germanico e il Papa allo stadio acuto e che Pio IX, con un ardimento grande ed assai compromettente per il clero tedesco, ha assunto un'attitudine così fieramente battagliera da provocare rappresaglie terribili. Abbiamo assistito tutti a questa lotta, ma io mi sono trovato in condizioni più favorevoli di altri per osservarla, poiché grazie all'amicizia che ormai mi lega a parecchie autorevolissime persone del Vaticano, posso avere, prima del pubblico, informazioni importanti e posso poi leggere integralmente certi documenti e certi articoli di giornali che o non sono comunicati o solo in estratto e con opportuni tagli ai lettori italiani. E così pure ho potuto sapere, la stessa sera del 5 marzo, 10 giorni prima che si tenesse il concistoro, la nomina a cardinale dell'arcivescovo di Posen, arrestato dal governo tedesco e condannato dal tribunale per disobbedienza alle leggi. Come pure, appena è stata pronunciata, ho conosciuto la locuzione che Pio IX ha fatto ai cardinali durante il concistoro e non ho mancato di segnalare a chi di dovere la ripresa del linguaggio violento anche contro l'Italia. Cogliendo infatti l'occasione della nuova legge sul reclutamento in cui si toglie l'esenzione dal servizio militare ai chierici, ai seminaristi, ai frati e dalle disposizioni emanate intorno alle scuole private, Pio IX accusa il governo italiano di essere nemico della Chiesa e di congiurare alla sua rovina, insistendo poi sopra l'assoluta necessità del potere temporale per il libero adempimento del ministero spirituale. Negli ambienti vaticani si temeva assai che il governo tedesco insistesse col nostro per una modificazione della legge delle guarentigie in senso restrittivo, ma questo contegno del Papa era fatto apposta, a parer mio, per accrescere, non per diminuire, i pericoli. Circolava fra il clero e le persone più intime del Papa il testo di una lettera che il Bismarck si pretendeva avesse rivolto al nostro governo, mercanteggiando, per così dire, la restituzione della visita del re Guglielmo al nostro re e sottoponendola a condizioni di alleanza contro il nemico comune. Si trattava, a parer mio, di un'abile falsificazione, perché anche coloro che ne sostenevano l'autenticità non sapevano indicarmene la data né la fonte da cui l'avevano appresa. Certo è che ci siamo trovati da capo in altissimo mare ed è curioso vedere certi articoli di giornali clericali, ad esempio l'Osservatore Cattolico, i quali, pur non osando difendere la legge delle guarentigie, con una logica tutta loro finiscono con ammetterne la relativa bontà. Si annunziava che alla Camera nostra il partito di sinistra si proponesse di muovere battaglia al governo della destra, accusandolo di troppa indulgenza e mitezza verso il clero e verso il Vaticano e facendosi propugnatore di una politica più energica. per quello che risulta a me, i deputati della sinistra non hanno tutti i torti, perché in certe circostanze il governo non solo ha chiuso un occhio, ma si è posto una benda fitta su tutti e due, per non vedere e in ricompensa cosa ha avuto, la locuzione del 15 marzo ed una serie di contumelie ed insinuazioni nei giornali clericali. Sbaglio, qualche cosa ha avuto, l'appoggio del resto, tutt'altro che sicuro, del clero di qualche diocesi nelle elezioni supplettive. Parlo di certa scienza, perché purtroppo, con mio grande rammarico e disgusto, ho dovuto occuparmi anche di questa spiacevolissima questione. Chi scrive in questi termini nel 1875 non è un diplomatico, come potrebbe sembrare, ma un funzionario di polizia, posto a capo del commissariato di Borgo a Roma, avamposto del governo italiano nel campo nero, come allora si diceva. Il brano è tratto dalle memorie di Giuseppe Manfroni, memorie definite da Mario Falco, giurista di fede israelita, allievo di Francesco Ruffini e, secondo Jemolo, giudice severo quanto mai. Queste memorie sono definite il commento quotidiano alla legge delle guarentigie. Questo brano è però anche il solo riferimento che io abbia trovato nelle memorie del Manfroni ai riflessi nel nostro paese del Kulturkampf che si combatteva negli stati tedeschi. Un po' poco per rispondere all'invito dell'amico Traniello di svolgere una relazione per questa 32esima settimana di studio. Ho così cercato di spostare l'oggetto della mia attenzione alle possibili onde lunghe prodottesi in Italia a seguito di queste lotte, negli anni del consolidamento dello Stato unitario. E per far questo ho pensato ad una ricostruzione del quadro italiano. Non ricostruirò però le vicende dei rapporti tra Stato e Chiesa, ma cercherò di limitare il mio intervento alla sola politica ecclesiastica, strettamente intesa, enucleandone alcuni temi che ritengo principali ed indicandone i piani di approccio e alcune fonti. Prima di questo, vorrei esprimere il mio personale convincimento che la storiografia italiana dei rapporti tra Stato e Chiesa è prigioniera delle intuizioni, tra virgolette, di Arturo Callo Jemolo. Intuizioni felici, sia chiaro, ma che attendono molte verifiche, perché sono pochi gli studiosi che hanno percorso la strada indicata da questo maestro. Più in generale, poi, vorrei avanzare l'opinione che l'intera storiografia del Risorgimento italiano sia andata formando sovrapponendo il nuovo al vecchio e ritengo quindi che si debbano togliere molte incrostazioni ritornando all'esame diretto delle fonti. Il giudizio di Jemolo di una sostanziale continuità rintracciabile attraverso alcune linee di fondo della politica ecclesiastica italiana è assai noto e viene condiviso da studiosi autorevoli quali Francesco Maggiotta Broglio e Pietro Scoppola. Quest'ultimo, a proposito delle differenze tra destra e sinistra, evidenzia una sostanziale identità di interessi tra i due gruppi e identità di presupposti ideologici. Meno condiviso è il pessimismo di fondo dello Jemolo che lo portò a scrivere che la storia dei rapporti fra Santa Sede e governo italiano fu veramente una storia piuttosto meschina e che la politica interna ed estera, almeno nei primi 12 anni di governo della sinistra, quanto a dire finché vi fu una vera sinistra, sia stata più che modesta, ricca di insuccessi e di fallimenti. E ancora viene ricordata dallo Jemolo la scarsa coerenza della sinistra, con i vescovi, a cui dapprima si nega l'exequatur e poi viene concessa la scorta dei carabinieri quando prendono possesso della sede vescovile. Sono giudizi severi, dai quali si salva soltanto Francesco Crispi, che, come è noto, viene valutato da Jemolo in modo benevolo, come l'uomo di governo che avrebbe potuto conseguire la conciliazione se avesse saputo vincere l'inveterato abito mentale che lo portava ad addossare alla curia e al clero colpe immaginarie e che non gli permise di frenarsi in certi salti che portarono in date ore al massimo scontro i rapporti tra Stato e Chiesa. Dopo questa premessa, vorrei ancora ricordare, non ai colleghi che lo sanno meglio di me, ma a questi giovani che certamente sono interessati alla problematica, ma che potrebbero non aver ancora riflettuto sul punto, vorrei ricordare, dicevo, come per tutto il XIX secolo gli affari di coscienza, come allora si diceva, siano stati oggetto di un'attenzione ben più spiccata a livello di classe politica e di opinione pubblica di quanto non si abbia oggi. Attilio Brunialti, professore di diritto costituzionale, consigliere di Stato, deputato al Parlamento, scriveva nel 1892, in un'opera assai celebre, quale la Biblioteca di Scienze Politiche, che non vi ha, si può dire, problema politico più delicato ed importante, come non ve ne ha uno, il quale si imponga a noi con maggiore urgenza di quello delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa. Entrando finalmente in media res, nel considerare alcuni aspetti della politica ecclesiastica italiana negli anni del consolidamento dello Stato unitario, vorrei precisare che non mi occuperò, o meglio, cercherò di non occuparmi delle problematiche connesse alla questione romana, vista nei suoi aspetti internazionali, e di quelle legate alla questione del cattolicesimo politico, visto nei suoi aspetti puramente interni. Operazione non facile. Ma dettata da esigenze di carattere metodologico. Quanto le vicende dei rapporti tra Stato e Chiesa siano legate alla politica estera ce lo ricorda per tutti Federico Chabot in alcune pagine già peraltro ricordate, che dopo 40 anni dal giorno in cui furono scritte non hanno perso alcun valore. Mi riferisco all'accusa formulata dal Bismarck nel 1874-75 ai governanti italiani di aver con la legge delle guarentigie troppo protetto il Papa così da consentirgli di attaccare la Germania. Quanto poi le vicende dei rapporti tra Stato e Chiesa siano parimenti legate a quelle del cattolicesimo politico italiano è storia anch'essa assai nota, sebbene il grande peso della egemonia crociana fece trascurare nel passato, nella storia d'Italia, il ruolo dei cattolici e della vita religiosa dal Risorgimento in poi. A mio avviso, però, quella che con felice termine fu definita opposizione cattolica, negli anni che a noi interessano non ebbe, sul piano strettamente politico, alcun rilievo. Non fu opposizione, ma fu fuori dello stesso sistema. Ovviamente diversa è la situazione sul piano amministrativo, e penso agli studi che si riferiscono alla Brescia di Zanardelli, o sul piano di quegli aristocratici circoli romani, a cui si deve ad esempio il tentativo conciliatorista del 1878-79 studiato da Ignesti. Quasi rispettando le competenze ministeriali, che vogliono la questione romana come spettante al Ministero degli Affari Esteri, quella cattolica come afferente al Ministero degli Interni, conterò dunque il mio intervento a quei problemi di politica ecclesiastica che facevano capo al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti. Vediamo dunque quali furono le principali problematiche che caratterizzarono la politica ecclesiastica italiana nell'ultimo trentennio dell'Ottocento. Più arduo, come ho già detto, sarà ricercare l'influenza dei fattori esterni. Ho individuato questi, una serie di problemi, quali il patrimonio sacro, gli enti ecclesiastici, le opere pie, le decime, i diritti di patronato, le disposizioni per l'anima, gli exequatur, gli abusi dei ministri di culto, scuole e insegnamento religioso, matrimoni e progetti di divorzio, acattolici e alcuni aspetti che ho definito problematiche locali. Si tratta delle tipiche materie miste, alcune di origine antica, altre nuove o nuovissime, come quelle legate alla scuola, che nascono con la laicizzazione dello Stato. Problemi, quelli della scuola e dell'insegnamento, che insieme a quelli del matrimonio, per l'evidente rilievo specifico, vengono trattati da altri relatori. Mi corre ancora l'obbligo di precisare che affrontando questi temi fornirò una visione globale che tiene conto soltanto in parte delle diverse realtà del Paese. Infatti, siamo soliti considerare in modo unitario quello che fu soltanto un ordinamento accentrato e restiamo vittime del giudizio crociano secondo il quale in quel periodo si andò formando una vita nazionale comune che supera le grette e meschine vite regionali e da benessere economico e spirituale. Occorre porre attenzione invece ai vari casi particolari. Per fare un esempio macroscopico, ben diversa è la situazione della parrocchia nell'Italia del Nord dalla chiesa ricettizia propria del Sud, eppure tutte e due furono colpite da un'identica legge che produsse effetti diversi. Patrimonio ed enti ecclesiastici. Nel campo del riordinamento della proprietà ecclesiastica, campo riordinamento promesso dall'articolo 8 della legge delle guarentigie, non si è mai andati a fondo, né da parte della sinistra e neppure con il concordato del 1929, ma si ebbero sempre riforme incomplete. Eppure si tratta di un fenomeno di ampiezza notevole. In Sicilia, dove non si erano verificate le alienazioni del periodo napoleonico, si trovavano quasi la metà di tutte le corporazioni religiose soppresse. Se poi consideriamo una rivista, la rivista di diritto ecclesiastico, dal 1890 al 1907, vediamo che il tema sul quale con maggior frequenza ed impegno è stata richiamata l'attenzione dei lettori è senz'altro quello della materia patrimoniale degli enti e dei beni ecclesiastici. Su 188 contributi comparsi nella rubrica studi teorico-pratici nelle 17 annate della prima serie della rivista, ben 161 riguardano temi relativi al diritto patrimoniale e alle persone giuridiche ecclesiastiche. A questo proposito, mentre sappiamo pressoché tutto delle leggi del 1866-67, e dei sistemi messi in opera dalle autorità della Chiesa per salvaguardare i propri beni o per tornarvi in possesso, le cosiddette frodi pie, e non mancano ancora oggi casi giurisprudenziali che si rifanno a quelle antichissime disposizioni legislative, quello che invece conosciamo scarsamente è il quantum di questa proprietà è passato di mano, tornando in qualche caso e sempre parzialmente all'antico proprietario. Vorrei a questo proposito suggerire come esempio un recente studio di Alfonso, studio monumentale, ma non potrebbe essere diversamente, di Alfonso Bogge e Modesto Sibona, la vendita dell'asse ecclesiastico in Piemonte dal 1867 al 1916, basato sugli archivi delle intendenze di finanza, dove si vede come la proprietà passi di mano a chi vada, chi siano gli acquirenti, e dove si notano anche alcune punte estreme nell'applicazione di queste norme, come nel caso del ricevitore del registro, del verbale della presa di possesso del convento dei Cappuccini di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna, che inserì nell'inventario anche il numero delle ostie consacrate presente nei vasi sacri. Problema dell'exequatur. Per l'exequatur nel 1888 ci fu un progetto Crispi-Zanardelli sulla revocabilità dell'exequatur, ma sostanzialmente le difficoltà maggiori furono determinate dal fatto che non si era stabilito chi dovesse presentare la bolla pontificia per ottenere l'exequatur governativo. Anche qui ci furono delle punte estreme nell'applicazione di queste norme, come si pretese un exequatur alla rinuncia di una sede vescovile. In questo caso colpì un prelato legatissimo ai Savoia, come l'arcivescovo di Genova, Andrea Charvaz, cavaliere dell'Ordine dell'Annunziata e precettore dei figli di Carlo Alberto, cioè del re. A questo proposito ricordo la ricerca di Bellardinelli e le fonti disponibili per chi voglia continuare queste ricerche. Abusi dei ministri di culto. E questo, quello delle norme sugli abusi dei ministri di culto, è uno dei momenti più significativi della politica ecclesiastica della sinistra. Significativa e propria del periodo è la qualifica onnicomprensiva di ministro di culto. Non la troviamo prima e non la troveremo dopo. Significativa è la scelta del termine abusi. Qui abbiamo un interessante contributo di Silvio Ferrari, che non arriva a dire che risolve tutti i nostri problemi, ma che certamente costituisce un punto di partenza e un valido esempio sul piano metodologico. Anche qui troviamo delle punte interpretative assai estreme, come l'intenzione del Mancini, che intendeva far rientrare tra gli abusi dei ministri di culto anche i rifiuti di sacramenti o di altre funzioni religiose. Legge Crispi, legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Questa legge, oltre che per la norma in sé interessante, per l'inchiesta sulle opere pie che precedette l'emanazione della legge, e che appurò che in Italia le opere pie erano 21.764, con forti sproporzioni patrimoniali e numeriche tra le diverse regioni. Questa legge prevedeva, come noto, il concentramento obbligatorio delle opere pie e, per quanto riguarda il problema che a noi interessa, il fatto che ci fossero istituzioni di beneficenza il cui scopo unico e prevalente era quello religioso, ma che difficilmente avrebbero potuto, potevano essere accorpate come previsto dalla norma. Su questa legge mancano studi sostanzialmente validi. Gli acattolici, se ne è già parlato prima, e questo è il termine che nel migliore dei casi veniva adoperato per designare le minoranze religiose presenti in Italia. La loro condizione giuridica vide dei sensibili miglioramenti nella vitalità ed espansione, con la costruzione di templi e di sinagoghe, e si ebbero delle circostanze adatte al proselitismo, di cui approfittarono, questo si è già detto, i protestanti favoriti dalla classe politica pronta a ridimensionare l'influenza cattolica. Non si è detto invece, e si dimentica, che quello che è stato sottolineato da un giurista non sospetto di clericalismo come Cesare Magni, che gli enti acattolici, per quanto modesti, aggiungo io, non ebbero mai a subire incameramenti, conversioni di beni immobili, né i loro patrimoni furono soggetti a tributi speciali. Una proposta in merito, presentata al Parlamento italiano nel luglio 1870, non ebbe seguito. Poi ci sono alcune problematiche che io definisco di carattere locale, che riguardano prevalentemente l'attività dei comuni italiani, l'attività amministrativa dei vari comuni italiani, l'allontanamento delle suore dagli ospedali, il problema dell'insegnamento della religione, la nascita di nuove parrocchie a seguito dello sviluppo urbanistico, nascita che necessitava del placet prefettizio, la demolizione di edifici di culto per ragioni di viabilità, questo non è stato assolutamente studiato, perché con distruzione di autentiche opere d'arte, maggioranze anticlericali prendevano a pretesto motivi di viabilità per demolire antichi edifici di culto. E atti dei vescovi soggetti a placet prefettizio, penso alla nomina dei parroci che è soggetta al placet. E poi c'è sempre nel campo amministrativo il problema della destituzione dei sindaci, non ci fu solo quello di Roma, come viene sempre ricordato, dobbiamo verificare quanti sindaci furono destituiti in Italia negli anni che a noi interessano. Io ad esempio ho rintracciato il caso del sindaco di Rapallo, che il 20 settembre 1894 fu sospeso dal governo per essersi rifiutato di esporre la bandiera dal palazzo comunale nella ricorrenza di Porta Pia. Questo sindaco, definito dalla stampa liberale clericalissimo, era il marchese Lorenzo Ricci, non è uno sconosciuto, fu un sostenitore di un progetto federativo neoguelfo e poi tornò ad essere sindaco di Rapallo per una ventina d'anni, dal 1911 al 1923, e fu costretto alle dimissioni dal fascismo. Ed è, così per completezza del quadro, è l'autore di un componimento poetico per il giubileo di Leone XIII nel 1887, che terminava inneggiando all'imperator Guglielmo che rendeva omaggio al pontefice. Sarebbe forse qui il caso di approfondire la figura di questo imperatore nella pubblicistica cattolica, come mai aveva tutte queste simpatie. Considerati questi problemi, ma ce ne sarebbero anche altri, vediamo i piani di indagine attraverso i quali ognuno di queste problematiche finora considerate dovrà essere affrontato. I piani di indagine sono quei tradizionali della politica ecclesiastica: la legislazione, la giurisprudenza, la dottrina, la prassi amministrativa. Si tratta dunque di scomporre i principali fattori che determinarono la politica ecclesiastica nelle loro realtà qualificanti, cioè attraverso l'esame di cosa dice la legislazione, cosa dice la giurisprudenza, cosa dice la dottrina, cosa dice la prassi amministrativa. Cercherò di essere piuttosto rapido. Legislazione, se ne è già parlato anche questo, io ritengo che la legislazione della sinistra sia poco caratterizzante, ma non che siano mancati degli interventi legislativi. Interventi ci furono, ma rispetto al pacchetto legislativo, il pacchetto di norme precedenti, non è il caso di dare una particolare rilevanza. La sinistra, l'opera della sinistra dal punto di vista legislativo è prevalentemente legata alla codificazione, ai codici dell'Italia Unita. Il resto sono norme piuttosto relative, l'estensione a Roma e provincia di alcune modifiche di leggi di soppressione delle corporazioni religiose, certo importante, ma non fece altro che, con alcuni aggiustamenti, non fece altro che estendere quello che erano norme valide per il resto del territorio nazionale. L'abolizione delle decime e delle altre prestazioni fondiarie. C'è il problema delle facoltà teologiche, io non ne avrei neppure parlato, ma visto che è stato ricordato, mi permetto di aggiungere che le facoltà teologiche non esistevano più allorché furono soppresse, almeno non esistevano più nella pratica, non c'era più docenti e non c'era più studenti, perché la Chiesa aveva perso interesse a che esistessero, per cui questa legge perde sostanzialmente di quel valore dirompente che leggendo la norma nel suo contenuto letterale potrebbe avere. Dottrina. La dottrina forse occorre qualche considerazione maggiore, perché la dottrina si viene formando proprio, la dottrina del diritto ecclesiastico italiano si viene formando proprio negli anni della sinistra, negli anni della sinistra, dei governi di sinistra. La nascita del diritto ecclesiastico dello Stato in Italia si fa risalire al 1884 con la prolusione a Palermo di Francesco Scaduto dal titolo Il concetto moderno del diritto ecclesiastico. Noto anche qui per inciso che lo Scaduto è un giurista di formazione tedesca. Cioè in precedenza si era avuto il declino dell'insegnamento del diritto canonico all'interno delle facoltà di giurisprudenza, con l'interruzione di quel dialogo nella cultura giuridica tra civilisti e canonisti che dura ancora oggi. Cambiano anche i docenti, i nuovi docenti sono di norma laici, di fede e spirito profondamente liberali, con alle spalle una solida formazione storico-giuridica e in contatti stretti e fecondi con la cultura d'Oltralpe. Resta da vedere, né mi pare che una ricerca pur interessante sul diritto ecclesiastico statuale e la cultura giuridica europea sia giunta a complete risposte in proposito, come mai il diritto ecclesiastico, che nasce nel nostro paese con modelli germanici, sul modello delle Staatskirchenrecht, raggiunga, e come tutto il diritto pubblico italiano, nasce tutto su modello germanico, come mai il diritto ecclesiastico, dicevo, raggiunga da noi uno sviluppo tale da meritare la definizione di disciplina eminentemente italiana. Avanzo l'ipotesi a questo proposito, ma è soltanto un'ipotesi, che la scuola germanica, pur primogenita, ebbe delle difficoltà ad inquadrare la natura e la posizione del diritto ecclesiastico, considerandolo come un diritto indipendente dal diritto pubblico e dal diritto privato, a causa dell'elevatezza dello scopo religioso e dello sviluppo storico raggiunto, per cui non trovò forse un diritto al quale agganciarlo, mentre nel nostro ordinamento il diritto ecclesiastico si agganciò subito al diritto pubblico. Giurisprudenza. A proposito della giurisprudenza, nel programma annunciato sul primo fascicolo della rivista di diritto ecclesiastico, siamo nel 1890, si legge che la giurisprudenza, così giudiziaria come amministrativa, nella sua opera quotidiana è costretta a riconoscere piena efficacia giuridica a vecchie leggi, decreti, regolamenti, rescritti, patenti, istruzioni, dispacci, sovente ignorate o e caduti in dimenticanza. Da qui si può dedurre quanto il ruolo della giurisprudenza fosse rilevante in quegli anni. C'è un giudizio di Jemolo sulla magistratura che non fu mai garibaldina, ma piuttosto elemento di conservazione, e mi pare che Ferrari giunga a distinguere tra conservazione, affermi che sia conservazione di ordine sociale più che conservazione di ordine clericale. Si tratta pertanto di considerare quella che è stata definita dal Maggior Tabroglio la formazione extralegislativa del diritto ecclesiastico, propria attraverso la giurisprudenza, oltre che la prassi amministrativa, ricostruendo così le linee di tendenza rispetto ad ampie aree tematiche, così da rinvenire le direttrici di sviluppo, gli eventuali mutamenti di indirizzo, le più importanti conferme dei precedenti giurisprudenziali. Uno spazio notevole nell'attività giurisprudenziale è quello rivolto a reprimere le frodi pie di cui ho parlato prima, frodi pie messe in atto per eludere l'incapacità degli enti soppressi. Anche qui chi voglia avventurarsi nel campo troverà dei problemi divertenti. Prassi amministrativa. La prassi amministrativa è anche questa è rilevante, per le interpretazioni in senso più o meno restrittivo che vengono avanzate a seconda delle contingenze politiche. C'è da dire che l'amministrazione pubblica fu relativamente sensibile alle influenze politiche per il permanere di quella vecchia tradizione amministrativa di impronta sabauda, ma che senz'altro non poté sottrarsi completamente. Interessante nel campo della politica ecclesiastica sono le circolari ministeriali e l'attività consultiva del Consiglio di Stato. Una ricerca in proposito è ancora in corso e si ferma al 1871, anche qui sarebbe il caso di proseguire. Dopo questi piani di indagine, e mi avvio a concludere, vediamo le fonti da utilizzare. Oltre alle fonti consuete, propongo alcune fonti tipicamente giuridiche, perché a mio avviso le fonti, oltre a comprendere non devono comprendere soltanto ciò che oggi è fruibile, ma anche quel materiale che allora fu accessibile e che formava gli indirizzi, l'opinione, la cultura giuridica dell'élite di governo. Ed è proprio sulla consistenza di questo materiale che in particolare vorrei richiamare l'attenzione, materiale tipicamente giuridico, materiale cioè a disposizione dei giuristi di allora. Prima di tutto i manuali. È nella manualistica che troviamo i legami più stretti con il mondo germanico. Non prenderò in considerazione tutti i manuali del tempo, abbiamo già sentito ricordare da padre Martina quello del mi pare che sia stato lei, manuale del liberatore, diritto pubblico ecclesiastico. Non è stato lei. Anche se sarebbe interessante farlo. Piuttosto vorrei ricordare due manuali particolarmente noti e tutte e due opere di autori tedeschi, anche se con ampi adattamenti per il lettore italiano. Il primo di questi manuali segna l'inizio della costruzione in Italia di una scienza del diritto ecclesiastico autonoma e capace di utilizzare la dogmatica elaborata dalla scuola giuridica tedesca. Ed è il manuale del Walter, manuale del diritto ecclesiastico di tutte le confessioni cristiane, traduzione dall'originale tedesco sulle ultime edizioni originali di Benelli, corredata e pubblicata con l'aggiunta di nuove note dal professor Conticini, ed è del 1846-1848, pubblicata a Pisa, qui siamo all'inizio. E l'ultimo di questo settore, è il trattato di diritto ecclesiastico, cattolico ed evangelico del dottor Emilio Friedberg, professore ordinario nell'Università di Lipsia, edizione italiana riveduta in collaborazione con l'autore e ampiamente annotata per rispetto al diritto italiano dall'avvocato Francesco Ruffini, professore ordinario nell'Università di Pavia, pubblicata a Torino nel 1893. Allorché Ruffini curò quest'opera destinata a diventare un classico, siamo a fine secolo, il mondo giuridico italiano comincia a rivolgere nuovamente la propria attenzione alla Francia, con Domenico Schiappoli che pubblica Diritto ecclesiastico vigente in Francia, 1892-93, Mattia Moresco che pubblica La separazione della Chiesa dallo Stato in Francia, 1906, Gaspare Ambrosini che è arrivato fino quasi ai giorni nostri, Diritto ecclesiastico francese odierno, 1880-1908, pubblicata a Napoli nel 1909. Ormai l'interesse è prevalentemente rivolto al mondo francese. Farà ancora riferimento al mondo tedesco quel Mario Falco, che ho ricordato all'inizio, giurista di scuola torinese, allievo del Ruffini, che pubblica nel 1910 Il riordinamento della proprietà ecclesiastica, progetti italiani e sistemi germanici, e nel 1915 la comunità ecclesiastica bavarese. Non so quanto le vicende della politica ecclesiastica possono aver interessato i giuristi tedeschi. Ho da segnalare solo un manuale del Geigel, Das italienische Staatskirchenrecht, pubblicata a Mainz nel 1886, ma confesso di non conoscere altro. Le riviste giuridiche. Riviste giuridiche proprio come occasione per fare il punto sugli studiosi, sugli studi in determinati momenti storici. Chi voglia avventurarsi in questo settore troverà un dizionario bibliografico delle riviste giuridiche italiane 1865-1984 dal quale potrà partire come base utile. Ricordiamo che nel 1820, l'ho già detto, nasce la rivista di diritto ecclesiastico che costituisce il caso assai raro di una rivista che accompagna quasi dal suo inizio il cammino di una disciplina scientifica. C'è poi quel grande monumento della cultura giuridica italiana che da fine secolo, in diverse edizioni, arriva ad oggi ed è costituito dal Digesto italiano, opera collettiva la cui prima edizione, che è quella che a noi interessa, fu presentata nel 1884 come documento del diritto dell'Italia unita. In 64 volumi, la dottrina italiana, per la prima volta, forniva una biblioteca giuridica unitaria. Oltre alla lettura delle singole voci, sono interessanti le biografie dei giuristi del tempo, con le quali se ne ricostruiscono i percorsi culturali e, per quanto a noi interessa, i possibili legami con il mondo giuridico tedesco. Non mi soffermo invece sull'Enciclopedia Giuridica Italiana, fondata e diretta da Pasquale Stanislao Mancini nel 1884, perché è stato oggetto di specifica attenzione da parte dell'istituto che ci ospita e di una pregevole pubblicazione. Mi permetterei di suggerire che si potrebbe meglio approfondire i rapporti tra Pasquale Stanislao Mancini e Mittermeier, forse qualcuno l'ha fatto e io lo ignoro. Qualche considerazione conclusiva. A questo punto, soltanto come apporto al dibattito e non come esiti di ricerche solamente prospettate, vorrei esprimere qualche considerazione. Si tratta di affermazioni o perplessità che possono rendere più precise le domande, ma non rispondere ad esse. Prima di tutto, ritengo che il Kulturkampf si impianti nel nostro paese in un terreno completamente diverso anche dal punto di vista giuridico. Secondo Salvatorelli, i liberali tedeschi non avrebbero imparato la lezione di Cavour, che cioè quando si fosse costretti ad entrare in conflitto con la Chiesa, occorreva coordinare le misure da prendere con una politica di libertà religiosa. Io ritengo che non l'abbiano imparata questa lezione neppure i liberali italiani e quantomeno che non l'abbia imparata la sinistra liberale. Il terreno diverso deriva piuttosto, a mio avviso, dalla specialità del caso italiano, che fa sì che il pontefice non accetti mai in Italia quello che finisce con il tollerare altrove. La Santa Sede, osserva Jemolo, in Francia, dopo il 1876, ritiene definitivo il crollo delle speranze di restaurazione monarchica e mira i buoni rapporti con la Repubblica. Con la Germania trova il modo di ristabilire cordiali relazioni. Nell'Austria interviene il meno possibile nei contrasti interni dell'episcopato tra i favorevoli e gli avversari ai cristiano-sociali. Con l'Italia ci sono spazi, momenti in cui sembra desiderare una conciliazione e poi bruschi ritorni. Questa mi sembra una costante della Santa Sede. Seconda considerazione. L'applicazione della legislazione eversiva conosce negli anni della sinistra punte estreme che portano al ridicolo, più che a ulteriori danni alla Chiesa cattolica. Questo ridicolo finisce con il condurre le parti alla ricerca di accomodamenti, di modus vivendi. Terza considerazione, è una conferma, non sono affermazioni nuove. La capacità di tenuta della Chiesa cattolica all'ondata della legislazione eversiva. Sono le stesse fonti statuali in questo caso a riconoscere, a riconfermare la tenuta certamente non prevista e il riemergere delle strutture connesse all'istruzione e all'assistenza, insieme al sorgere di nuove istituzioni, pur con profonde trasformazioni nelle strutture ecclesiastiche, trasformazioni che potranno meglio essere conosciute studiando l'ordinamento della Chiesa. È quello che Francesco Scaduto, il primo degli ecclesiasticisti italiani, definisce il ripullullamento degli ordini religiosi in Italia, che si riorganizzano usufruendo del diritto di associazione accordato dalle leggi civili. Quanto poi questo tentativo di laicizzazione degli interessi della Chiesa, con il passaggio dalla sfera del diritto pubblico a quella del diritto privato, sia stato effettivo è da verificare. In particolare sono le nuove congregazioni religiose, questo lo sappiamo, come i salesiani, che si difendono meglio dalle leggi eversive rispetto alle più antiche fondazioni. Quarta considerazione, anche questa è una conferma, che un'ulteriore conferma che ci deriva dall'esame della politica ecclesiastica, l'abbandono da parte governativa di ogni proposito di reformatio ecclesia. Quinta considerazione, il rispetto assoluto di tutta la dirigenza liberale, sia di destra che di sinistra, professato per la legge delle guarentigie, vista come monumento di sapienza giuridica e politica, e quasi un completamento dello statuto, secondo quanto ebbe a dire lo stesso Mancini. Questo rispetto fu eccessivo e gli aggettivi per definire la legge delle guarentigie si sprecarono, ma ciò consentì di garantire attraverso aggiustamenti extra legislativi l'equilibrio nelle relazioni tra Stato e Chiesa. Non dico la pace religiosa come sostiene qualche altro autore più autorevole di chi parla. Concludo ricordando ancora un passo di quelle memorie di Giuseppe Manfroni che ho ricordato all'inizio, laddove lo zelante funzionario di polizia afferma che se è ridicolo attribuire a Garibaldi idee di violenza nascoste e subdole contro il Vaticano, altrettanto ridicola è l'idea di associare il nome di Garibaldi a quello di Bismarck. Bismarck e Garibaldi, dunque, ambedue in lotta contro la Chiesa. Solo che quello nostrano, da identificarsi con il nome di Garibaldi, non è Kulturkampf, ma anticlericalismo di basso profilo. Ed è questo anticlericalismo la lente opaca attraverso la quale si fece scienza, si fecero leggi, si fece politica nella seconda metà del XIX secolo in Italia. Grazie. Grazie Vernier, ci ha fornito un altro punto di vista, quello diciamo normativo, in senso lato, legislativo, amministrativo, almeno nei suoi tratti essenziali, con indicazioni sulle piste che potrebbero essere seguite. Mentre parlava mi veniva in mente che in fondo è un terreno ancora in larga misura da scavare, proprio perché questo genere di analisi sono state condotte spesso piuttosto a livello legislativo o al massimo di giurisprudenza, ma molto poco poi sul piano delle applicazioni caso per caso. Sono in grado di comunicare che sulla legge delle opere pie sta per uscire una grossa ricerca che ha condotto una mia allieva che lavora in questo momento in Inghilterra, uscirà in inglese, che si chiama Giovanna Vinai. Ricordo, avevo visto quest'opera del Boggio sulla vendita dell'asse ecclesiastico in Piemonte, è significativo che una ricerca di questo genere che va a verificare tra l'altro la sorte, direi quasi particella per particella, della proprietà ecclesiastica, le mani attraverso le quali queste proprietà sono passate, spesso ritornando poi, come ha detto anche Vernier, in una certa misura, nelle mani originarie, e senza dimenticare gli aspetti spirituali e di prassi pastorale, perché non è da trascurare il fatto che gli acquirenti dei beni ecclesiastici si incorrevano nella scomunica e quindi c'era un problema di pratica pastorale che veniva risolto attraverso come è stato dimostrato da vari studi, vero? Attraverso formule spesso diciamo di compromesso o di accordo, senza che ci fossero veramente irrigidimenti di nessun tipo né dall'una parte né dall'altra. E naturalmente, guardando le cose in questa ottica, il quadro appare meno rigido, meno drastico e forse anche più confuso, proprio per la carenza di studi particolari che abbiamo, di quello che può apparire guardando le cose, per esempio, dal punto di vista dei grandi orientamenti politici e quindi delle scelte, ecco, oppure dei grandi cleavages di tipo ideologico o culturale. A me sembra che però anche questa dimensione sia significativa, proprio in quanto ci troviamo di fronte a problemi che attengono direttamente questioni di carattere normativo, legislativo e amministrativo dello Stato. Come? Va bene, allora c'è uno schema di traduzione. Pregherei i nostri, un sommario magari, pregherei i nostri ormai capaci, è inutile? Volete farne una rapida? Ma a me, non so se sia necessario, perché ho l'impressione che la esposizione sia stata molto chiara, forse. Credo che i colleghi sia stato capito, insomma. Non so, esprimete un giudizio, ma a me sembra che... No, io, visto che piuttosto anche tardi, sono le 6:00, aprirei subito la discussione, darei la parola a chi volesse intervenire, con la ferma intenzione di chiudere comunque entro le 6:30, comprese le risposte. Quindi prego gli interventi rapidi e le risposte rapide. Prego. Una brevissima domanda. Lei ha parlato della demolizione di edifici ecclesiastici col pretesto, eccetera. Vale questo soprattutto per l'amministrazione Nathan a Roma o più per altri casi? Puoi prendere nota per rispondere. Ci sono altre domande? Ci sono altre richieste di intervento? Magari diamo la parola. Prego, professor Weber. Vuoi prendere Weber? In einem früheren Vortrag, ich weiß nicht mehr in welchem genauen Zusammenhang, wurde sehr deutlich herausgearbeitet, dass der italienische Kulturkampf sich sehr lange erstreckt hat, circa 50 Jahre, der deutsche Kulturkampf im Grunde genommen eine 5-jährige Explosion war und dann absank, während der italienische Typus mit Frankreich zu vergleichen ist, eine langsame und schmerzhafte, in vielen einzelnen Details sich erstreckende Prozess. Meine Frage wäre also jetzt an den Referenten. Die Sinistra Italiana, hat sie nach ihrer Meinung hat sie kein zusammenhängendes Konzept gehabt, sondern hat sich auf kleine Schikanen, wenn ich das richtig verstanden habe, beschränkt. Ich selbst habe Zeitungsartikel im Auge, wo einzelnes neapolitanisches Kloster auf Frage also, wenn es ein extra nach Deutschland gar. Und wenn es auf der anderen Seite zwischen den Minister und Frankreich einen Gegensatz gab, wieso hat sich dann keine organische Gesetzgebung, die das Problem von der Sicht der Sinistra aus ein für alle Mal löst, im Parlament durchsetzen lassen? Posso subito tradurre? Bene, grazie. La mia domanda sarebbe: perché la Sinistra non ha sviluppato una legislazione organica una volta per sempre, dove i problemi del diritto ecclesiastico fossero risolti in un modo decisivo, ma è andato in questa via dei piccoli provvedimenti rappezzi, rappezzanti, le piccole cose, le piccole cattiverie, singoli conventi furono secolarizzati con grande scandalo di una certa regione e così via. Perché dunque in ultima istanza non una legislazione organica dalla parte della sinistra? Solo una domanda proprio, avrei potuto farlo anche in privato. In che anno il sindaco Ricci più o meno fa questo componimento Leone XIII, che non mi è sfuggito proprio l'anno? 1887, quindi coincide proprio con un anno importante. Ce l'ho. Ha chiesto la parola il professor Ferrari, e se qualcuno gli fa passare il microfono perché è un po' lontano. Grazie. Era sul punto del diritto ecclesiastico e della diversa e maggiore fortuna che il diritto ecclesiastico sembra aver avuto in Italia che non in Germania, come accennava Varnier. Mi chiedo se una ipotesi di risposta non possa essere il fatto che in Italia il diritto ecclesiastico nasce subito come una scienza tutta laica e tutta statale, insegnata nelle facoltà di giurisprudenza, mentre in Germania viene insegnata nelle facoltà di teologia e con connessioni sempre molto strette con il diritto canonico. Il modello italiano forse è più funzionale ad una ideologia separatista, perché rivendica una completa separazione fra il diritto dello Stato relativamente alle chiese e il diritto interno delle chiese. Era solo un'ipotesi di possibile risposta. Il diritto ecclesiastico viene insegnato in Germania anche nelle facoltà di legge. Sì. Cattedre di Kirchenrecht sono sia nelle facoltà di teologia come nelle facoltà di legge. No, è canonico. Ah, ho capito. No, se non il diritto ecclesiastico, il diritto dello Stato nei riguardi della Chiesa. E se non sbaglio, sta sì. E là dove sono specialisti e anche nelle facoltà di legge. Friedberg, per esempio, era giurista della facoltà di legge, lui uno dei autori dei Kulturkampfgesetze. Allora si trova anche lì. Ma si trova, lei ha ragione, in quanto il diritto ecclesiastico si trova nelle facoltà di teologia, ma non esclusivamente. Sì, volevo fare due osservazioni a Varnier. La prima riguarda le facoltà di teologia. Intanto lo scioglimento propriamente non cade nell'età della sinistra, cade nell'età in cui governa la destra, anche se poi le sue applicazioni proseguono. Ecco, effettivamente è vero che le facoltà di teologia delle università statali erano ormai in crisi da molto tempo, per il fatto che i vescovi erano, le autorità ecclesiastiche erano ostili alle facoltà di teologia, perché nelle facoltà di teologia prevalevano in genere le dottrine di tipo gallicano, o quello che chiamavano giansenista, ma ormai col giansenismo non aveva, credo, quasi più nulla a che fare. Comunque erano facoltà in cui per esempio allignavano, ho in mente soprattutto il caso di Torino, insegnanti che avevano simpatie cattolico-liberali, che si collegavano frequentemente poi alle tradizioni, per certi versi, tradizioni gallicane, cioè alla difesa, insomma, al sostegno dell'autorità dello Stato rispetto alle ingerenze ecclesiastiche, non dimentichiamo con particolare riferimento alla forte presenza dei gesuiti, per esempio, in Piemonte fino al 48. Ecco, però non mi sentirei di condividere del tutto l'immagine che fossero ormai vuote, perché io ho le prove che qualche studente e anche un consiglio di facoltà, e quindi alcuni professori, nel momento dello scioglimento c'erano in alcune facoltà di teologia. Quindi, certo, diciamo, erano in fase di estinzione quasi naturale, ma non erano completamente estinte, insomma non viene ucciso un corpo già morto, anche se forse per vari motivi è un corpo moribondo. Un'osservazione più generale che farei riguarda la volendo dare un giudizio complessivo e non di valore, vale a dire di valutazione in un senso o nell'altro, ma un giudizio più di constatazione, personalmente sottolineerei il fatto della mancanza di continuità soprattutto della politica ecclesiastica dei governi italiani, cioè non è una politica che manca tendenzialmente di una sua linea, manca di una sua continuità ed è soggetta a sbalzi, a passaggi, a vuoti, come è stato già sottolineato da qualcuno. Mi chiedevo se in questo modo strano di essere, o comunque particolare, specifico della situazione italiana, dove la continuità nelle linee di governo è uno poi dei grandi problemi che investono molti altri settori, non debba essere anche messo in conto proprio il riferimento alla legge delle guarentigie. Perché la legge è possibile pensare, è una domanda che faccio, mi piacerebbe sapere che cosa ne pensa, che si ritenesse che la legge delle guarentigie avesse quasi esaurito o tendenzialmente esaurito il problema o l'insieme dei problemi attinenti alle questioni ecclesiastiche, dimenticando oltretutto, e questo lo ricordo soprattutto ai colleghi tedeschi, ai quali forse sfugge questo particolare, che una parte consistente, importante della legge delle guarentigie non fu mai applicata, perché la legge delle guarentigie conteneva una parte che riguardava le guarentigie all'indipendenza della Santa Sede del Pontefice, ma conteneva un'altra parte che noi definiremmo di tipo programmatico, circa per esempio l'ordinamento dei beni ecclesiastici, la costituzione di forme di amministrazione nuove, vero, di beni ecclesiastici, che non fu mai applicata. Quindi in realtà si può dire quindi che non solo la politica ecclesiastica mancò di continuità, ma alcuni degli elementi che pure esistevano restarono inapplicati sostanzialmente. Quindi da questo punto di vista possiamo veramente parlare di una, dal punto di vista legislativo, di una certa debolezza complessiva. Questo almeno è l'idea, l'immagine che mi sentirei di rappresentare, il che non significa naturalmente che non abbia avuto poi invece delle punte di radicalismo, ancor meno giustificate da un certo punto di vista per la sua discontinuità. Grazie, se vuole. Zwei Sachen an. Einmal, dass die theologische Fakultät ja schon unter der Destra Storica aufgelöst worden ist und sich schon vorher zwar in einer Krise befand, einer Krise deswegen, weil an zahlreichen Universitäten, zum Beispiel in Turin, liberale Katholiken lehrten, die einen gewissen Gallikanismus, manchmal Jansenismus anhingen, also Unterstützung der staatlichen Autorität gegen kirchliche Autorität. Dennoch kann man nicht davon sprechen, dass die theologischen Fakultäten schon aufgelöst waren. Es gab Studenten, es gab Fakultätsräte, die dann erst aufgelöst wurden. Zweitens eine Frage, nicht ein Urteil, sondern eine Beobachtung zu der Tatsache, dass es keine Kontinuität in der Kirchenpolitik gibt, dass die große Linie fehlt, Sprünge liegen vor. Wieso kommt das? Liegt das an den Garantiegesetzen? Hat man geglaubt, dass mit den Garantiegesetzen dieses Problem schon erschöpft sei, obwohl zu beachten ist, dass von denen ja ohnehin nur ein Teil, dass ein Teil von denen nicht realisiert worden ist, nämlich jener programmatische Teil, der auf Kirchenbesitz, auf kirchliche Administration und so weiter gerichtet war. Danke. Ma scusa, padre Martino. Io non ho capito mai una questione e vorrei una spiegazione. Mi trovo di fronte ad un'antinomia. Tutti hanno detto, anche ripetuto questa sera, che gli ecclesiasticisti, cioè gli studiosi di diritto ecclesiastico italiano, si sono formati alla scuola tedesca, e questo lo dice Jemolo e va bene. E questi studiosi tedeschi erano soprattutto per primo il Friedberg. E allora qui mi trovo di fronte ad un problema. La linea tedesca non si può chiamare separatista, io non ho letto il Friedberg, domando a chi l'ha letto, non credo che il Friedberg fosse un separatista, oppure se lo era in contrario alla linea di Bismarck, insomma. Allora come lo spieghiamo? Cioè, cerco di essere più chiaro. Dunque, gli studiosi di diritto ecclesiastico italiano sono più o meno difensori di un certo separatismo inteso in tanti modi, che finisce per non essere un vero separatismo. Dicono di dipendere dagli studiosi tedeschi. Questi studiosi tedeschi, i casi sono due, o difendono il separatismo e allora sono contrari alla linea di Bismarck, o non lo difendono. E allora in che senso c'è questo rapporto di padre e figlio, diciamo? Poi una seconda domanda, sarebbe interessante vedere se sono studiati in Germania il fenomeno della dispersione e del ritorno con gli istituti religiosi. Forse si verificava anche lì il problema che si è verificato anche in Francia: per salvare l'attività pastorale era meglio nascondere la propria vita religiosa oppure no? Ecco, la Santa Sede su questo punto era molto intransigente, dice: difendete anche l'abito, è inutile rinunciare all'abito, tanto vi cacceranno lo stesso. Verucci, prende. Fatti passare per piacere. Ma innanzitutto, a proposito delle facoltà di teologia, ma intanto sì, condivido quello che ha detto Traniello, non mi sembra affatto che fossero del tutto vuote, anche se erano certamente in declino. Comunque non mi sembra, ecco, mi permetto di dissentire da te, Varnier, su questo aspetto. Poi non mi sembra francamente un'argomentazione, perché questo tipo di argomentazione potrebbe essere estesa anche ai direttori spirituali nelle scuole secondarie. Anche lì, diciamo, dalle indagini, dalle statistiche che sono alla base poi del dibattito parlamentare del 77, risulta che in gran parte delle scuole secondarie italiane i direttori spirituali non c'erano più. Eppure, diciamo, la legge Coppino ebbe, diciamo, l'iter parlamentare drammatico che tutti sappiamo e l'impatto drammatico che tutti sappiamo. Quindi non mi sembra che siano argomentazioni, diciamo così, persuasive in questo senso. Ci fu un grosso scontro parlamentare sulla soppressione delle facoltà di teologia nel 1871-72, il che significa che al di là poi del fatto che fossero meno vuote, la soppressione o meno, innanzitutto aveva un grosso valore ideale, ecco. E fu considerata a torto o a ragione la vittoria la soppressione come una vittoria degli ideali laici, insomma, no? Cioè io qui appunto un giudizio dato molti anni dopo da Pietro Piovani alla metà degli anni 60, quando qualche aspirazione a restaurare, magari sarebbe una cosa anche in un clima diverso, auspicabile, le facoltà di teologia, si parlava di questa restaurazione, e scrisse Piovani che appunto nella soppressione delle facoltà di teologia, così la nazione italiana aveva visto quasi il simbolo della propria ambizione di rinnovamento culturale e morale. Quindi un grosso significato ideale. Non solo, ma lo scontro fu tra neo-giurisdizionalisti e separatisti. E in fondo la soppressione delle facoltà di teologia, diciamo, fu una vittoria a favore in fondo di quanti, no? Nonostante i limiti, insomma, della legislazione ecclesiastica da questo punto di vista, tuttavia percorrevano tendenzialmente la via della separazione. Ora, la via bismarchiana, la via del Kulturkampf, era la via, diciamo, del neogiurisdizionalismo, la via che, diciamo, l'opinione laica maggioritaria perseguiva era quella del separatismo, una via diversa. E quindi io non ho nulla da aggiungere a quanto naturalmente ho detto nella mia relazione, però mi permetto di dissentire dalla visione riduttiva che mi pare di aver colto, se ho ben capito, nella relazione di Barnier, in ordine così alle aspirazioni del mondo laico italiano. Non ho nulla da aggiungere, immagino a questo problema, che mi pare che poi sia il nodo di questo nostro incontro, se ci sia stato o no un Kulturkampf in Italia, il mio parere è apparso, credo, abbastanza chiaramente, sarà ripreso nelle conclusioni. Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, darei la parola a Barnier, pregandolo di restare se possibile nei limiti di una decina di minuti, anche se le domande sono abbastanza numerose, 10 minuti e un quarto d'ora comunque. Grazie. Trovo che il nodo maggiore cui devo sciogliere è quello delle facoltà di teologia. Io non credevo che questo fosse un aspetto importante e nella mia relazione l'avevo addirittura trascurato. Perché questo? Perché se noi partiamo dal presupposto che la legislazione ecclesiastica fosse fatta prevalentemente per contrastare la Chiesa cattolica, lo scioglimento delle facoltà di teologia fece un favore alla Chiesa cattolica, non fece un danno. Prova ne sia che nel 29 la Chiesa cattolica non chiese affatto la costituzione delle facoltà di teologia, chiese l'università cattolica, che è ben altra cosa. Cioè i laici, gli anticlericali, diciamo meglio, non ottennero nulla, non ottennero dei beni come li ottennero dalle leggi eversive, cioè non ottennero di fare un dispetto alla Chiesa cattolica, perché alla Chiesa cattolica fece un favore. Questa è la mia opinione, perciò fu una legge completamente inutile da questo punto di vista e ritengo poco importante in un contesto globale di politica ecclesiastica. mi pare che non ci fossero effettivamente studenti. Io ho visto Genova e ho visto Pisa e c'erano vecchissimi docenti, qualcuno fu messo in pensione, qualcuno fu riciclato con altri insegnamenti, se titolari di cattedra di insegnamento. E gli studenti erano pochissimi perché erano soltanto preti e i preti non erano graditi al vescovo se andavano a studiare nella facoltà di teologia. Questa cosa? Qualche prete che. Sì, per fare, certo, per fare dispetto al vescovo, certamente. No, no, il titolo è giuridicamente è un titolo valido, insomma, io adesso sono piuttosto tranchant in questi giudizi, ma nell'ottica complessiva, come ho detto, mi pare che non portò a nessun risultato, né materiale né psicologico. Legge Guarentigia non applicata, professor Traniello, e qui per fortuna posso essere più preciso. La legge delle Guarentigie non fu applicata e non fu modificata perché, a mio avviso, lasciandola così com'era, la classe dirigente del tempo riteneva che avesse più valore. Qui ho un comunicato del Presidente del Consiglio De Pretis del 20 agosto 1881, nel quale si riafferma l'impegno di mantenere e far osservare la legge delle Guarentigie, cito, la cui efficacia dipende dal credito della sua stabilità, non dall'altrui accettazione o consenso. Perciò la legge doveva essere tenuta così, monumento di sapienza giuridica, non modifichiamola, non applichiamola, perché applicarla voleva dire emanare nuove leggi, perché se per la nomina di vescovi si dice nel primo comma che è libera e poi nel secondo comma si precisa che è soggetta ad esequato finché non si provveda, l'applicazione implicava nuove leggi. Studiosi italiani di diritto ecclesiastico che si formano alla scuola tedesca. E qui sono meno preciso di quanto lo sia stato finora. E alla scuola tedesca si forma Ruffini, che è un separatista, ma si forma Scaduto, che è un giurisdizionalista. E evidentemente o c'erano delle pluralità nell'ambiente germanico o il contatto poi con la realtà italiana li piega a situazioni diverse. Questa è, tutti e due si formano nello stesso contesto culturale, assorbendone poi evidentemente degli aspetti diversi. Non posso rispondere alla sua seconda domanda perché forse è rivolta a, mi auguro che qualcuno risponda. Per esempio, ha collaborato, come diceva lì, alla giurisdizione. Sì, mi pare di sì. Friedberg, sì. Ma non è che di genere viene usato come manuale ecclesiastico? Ampiamente rivisto da Ruffini, ma l'impostazione di Ruffini è... Sì, sì. Ma questa poco è quello che sapevo anch'io. Invece non mi trovo in difficoltà, risponde anche al professor Weber, gli ha risposto in parte il professor Traniello, c'è da aggiungere che il passaggio del potere dalla destra alla sinistra non fu una rivoluzione, fu un'operazione trasformistica, perciò in fondo le persone erano quasi le stesse, non possiamo pretendere che ci sia un cambio netto di politica. Perché ma forse proprio per quella ragione per cui furono soppresse le facoltà teologiche, cioè per fare un dispetto, che poi in quel caso non fu un dispetto, ma non c'era forse più quel disegno globale perché forse si era già esaurito. E non c'è il professor Lille, non forse glielo, se... dici poi stasera, glielo dico poi stasera a pranzo. Magari se interessa a qualcuno il problema della demolizione degli edifici sacri, non mi riferivo soltanto a Roma, c'è qualcosa su Venezia, negli atti della Mendola di Niero, Don Niero parla di distruzione di capitelli, cioè di edicole sacre a Venezia, e mi riferivo, mi si perdoni, forse il provincialismo, ancora una volta a Genova, dove ci furono grandi discussioni in consiglio comunale tra rettilinei e curvilinei. I rettilinei volevano una strada, erano gli anticlericali che volevano una strada dritta, i curvilinei volevano una strada con una curva. Questo era per salvare una chiesa che stava nel mezzo. Vinse le rettilinee, a Genova abbiamo le strade nuove dritte. E se c'è ancora qualcosa? Mi pare di no, sai. Mi pare di no, credo dobbiamo ringraziare Varnier, ringraziamo tutti i presenti che hanno avuto la pazienza di resistere fino a quest'ora abbastanza tarda. Oggi è stata una giornata che ci ha fatto pagare la semivacanza di ieri pomeriggio, come sempre succede nella vita. Beh, vi auguro una buona serata e buon appetito a tutti, a domani alle 9. La croce dalla nascita alla tomba, non deve incontrare la croce. Heute, das bedauere ich, Sie können auch nach vorne kommen, dann kann man leichter miteinander reden und diskutieren. Also zwei praktische Hinweise. Wie schon Herr Prodi sagte, come diceva l'amico Prodi, qui una lista per quella che vogliono cenare stasera al ristorante Roma, dove si mangia bene. Poi avrei una proposta, che facciamo una piccola, wie sagt man, raccolta di soldi per il personale, cioè una specie di mance per il personale lì al collegio. Forse potrei chiedere alla signora Liermann di fare questa raccolta. Poi passiamo all'argomento della prima relazione. Abbiamo